Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sul Strumo Rock. Domenica di intervista, la prima dopo la ripresa, dopo la pausa estiva. E mi allaccio semplicemente per introduzione a quel messaggio, quell'introduzione nel post che avevo fatto per dire che avevo in questa domenica l'intervista, quindi mi allaccio un attimo a quel messaggio tirato fuori un po' col cuore, perché effettivamente era quello che volevo trasmettere anche con il post, che semplicemente sono... Sto per andare a intervistare in questa oretta e ho avuto questa spoiler a qualche mese fa di questo ritorno di una band che mi è sempre piaciuta e che purtroppo ai tempi ho avuto l'occasione di vedere poche volte. C'è un disco che ho adorato praticamente da subito, me lo sono divorato, lo conosco a memoria, me lo sono riascoltato qualche mese fa per sapere, ho detto oddio, state a vedere che me lo sono completamente dimenticato e se mai torneranno, anzi quando torneranno effettivamente a suonare da live, non posso fare la figuraccia di non cantare i loro pezzi. L'album si chiama Dentro il Suono, è di praticamente 20 anni fa e ho qui con me l'onore di avere Fabio, voce e cantante dei voce e chitarra dei Blu Nitro, quindi un po' arrabattata. Sul messaggio l'ho scritto un pochino meglio perché ero un po' più tranquillo, però ciao Fabio, benvenuto sullo Strumo Rock. Ciao Danilo, grazie mille, grazie dell'invito. No, come ti dicevo, mi fa veramente un sacco piacere e come dicevo c'è questa data one shot per chi segue i Blu Nitro oppure magari le Bambole di Pezza, saranno in apertura a un loro concerto, questo festival del Balera Punk che si terrà a Cremona il 27, quindi uniamo anche questo discorso, ma non c'è solo questo perché c'è questo album di remix a brani rivisitati da Dentro il Suono, Fuori dal Suono e La Tempesta, più questo inedito saltato fuori un po' a casaccio. Ne parleremo di tutto ciò in attesa appunto di questa data concerto, di questa data one shot. Prima di parlare di tutto questo, non so se hai visto qualche diretta vecchia di Strumo Rock, c'è una domanda introduttiva a cui ti ringrazio gentilissimo, quindi probabilmente sai già di cosa sto per andare a chiederti per questa domanda introduttiva. Sicuramente sai che i NoFX si sono sciolti ormai quasi da 2 anni e quindi ti chiedo semplicemente, ma con il dono della sintesi, perché sennò so che ci sarebbe parlare di tantissimo, cosa sono per te NoFX? Allora, NoFX innanzitutto, vabbè, grandissima trovata di Fat Mike, dire che si sono sciolti, poi finire il concerto per dire faremo la reunion con il treppiede e carrozzina, quindi già pronti per ripartire, quindi vabbè, loro formidabili. E cosa dire, alla fine per me sono stati il momento proprio dell'adolescenza in cui dici cos'è sta roba, cosa sta succedendo, cioè a dire il vero è partito tutto con i Green Day nei primi momenti piuttosto che gli Offspring con Smash, però nel momento in cui sono arrivati in FX, ciao, è partito proprio il cranio totalmente, nel senso che erano un gruppo così fuori dagli schemi, con idee pazze, folli, cinici allo stesso tempo, folli, sarcastici, cioè proprio avevano tutto, i Beatles del punk, quindi alla fine incredibili. Va bene, quindi immagino, deduco che è grande band, ma effettivamente anche te, come tantissimi altri, ti sia dispiaciuto. Ma c'è di a Milano, che non so se No, ho mancato la data purtroppo, però diciamo che li seguo dall'inizio, da Maximum Rock and Roll fino da... Quindi direi che hai visto concerti memorabili probabilmente da parte loro, in locali minuscoli davanti a 200, massimo 500 persone per poi dopo vederli esplodere davanti a dalle migliaia in sub, non male immagino. Quindi, allora ti spiego, in realtà per me erano, presente, cioè quando avevi la cassettina o comunque il CD agli inizi, no? C'erano quella cosa... che dicevi ma chi sono questi, vedevi, non so, magari loro erano contro i video inizialmente, quindi c'era solo un video di Leave It Alone piuttosto che solo il video di Sticking In My Eyes, cioè delle robe che alla fine ti facevano ancora più viaggiare, no? E ti facevano ancora più pensare chi erano questi quattro pazzi, no? E per me il live incredibile che abbiamo visto è stato al Beach Boom Festival a Jesolo, dove hanno suonato con i Legwagon, e lì vabbè è stata una roba assurda. A parte che siamo entrati nel backstage no, ma facendo un numero che non ti sto qua a spiegare, anzi te lo spiego velocissimo. Vai. Praticamente il pass era identico al biglietto d'ingresso, no? Quindi abbiamo preso le carte d'identità, abbiamo tolto la plastica, abbiamo messo dentro il biglietto d'ingresso, abbiamo visto il cambio delle guardie, diciamo, della security, e siamo passati con il biglietto davanti e siamo andati nel backstage. Quindi, oddio, certo, fantastico. Poi questa me la racconti un pochino meglio in altre occasioni. E, rompendo il ghiaccio ovviamente con Fabio, dopo andremo a parlare di tutto quello che vi ho detto di questo album Morfina con i remix, questo singolo che ci andremo sicuramente ascoltato se non ve lo siete già ascoltati. E come dicevo, sono qui in collegamento con Fabio dei Blue Nitro, dove andremo a parlare appunto di questo nuovo disco, che poi non è propriamente nuovo, ma dopo ce l'andrà a spiegare lui. 333 180 94 94, se qualcuno volesse mandare un messaggio tramite WhatsApp anche solo per il saluto, oppure se qualcuno sta seguendo la diretta di Instagram potrà tranquillamente scrivere un messaggio, che siamo in due e dovremo leggerlo tranquillamente. Quindi domanda ovviamente un attimo di rito, senza tanti fronzoli, un po' un classicone che magari se hai già fatto qualche intervista te l'avranno già sicuramente chiesta, e ti ripeto, fa piacerissimo, ma come mai questa decisione 20 anni dopo di tirare fuori un disco reprise sostanzialmente con questo nuovo singolo, giusto per, sai, quelle domande super classiche, perché è da spiegare magari il motivo di così tanti anni. Certo, allora diciamo che io dopo Blue Nitro sono andato avanti con altre situazioni, diciamo un po' più acustiche, ma allo stesso tempo anche un gruppo rock di cui vado molto fiero, che sono i Coen. E con loro abbiamo fatto un album, siamo passati, diciamo, dal punk, almeno io sono passato dal punk più al crossover, quindi abbiamo seguito un po' più quella linea che era la linea di Deftones, System of a Down, l'idea era quella. Okay. E quindi abbiamo nel 2013 pubblicato questo disco e ho cambiato genere, diciamo, non ho più seguito quello che era il discorso punk, anche perché comunque nelle mie corde c'è sempre stato comunque una visione abbastanza 360 gradi della musica, quindi vabbè, con mio padre che mi ha cresciuto con vari generi che non sono punk, però alla fine l'idea era questa, non c'era l'idea di andare a rifare comunque quello che era stato fatto nel 2004. Ma un giorno incontro questi ragazzi incredibili, che sono i Valera Punk, e qua sottolineiamo, perché sono dei ragazzi a Cremona che hanno detto: abbiamo bisogno a Cremona di cominciare e di tornare a far rumore, no? E allora loro mi avevano già contattato, io mi ero un attimo stoppato con la musica e alla fine loro mi hanno dato il là. Quindi io devo dire grazie a loro, perché comunque loro, gli ho detto, io vorrei fare una grigliata. Per lei proprio terra terra in amicizia della serie, ti suono due canzoni ma non facciamo una cosa troppo seria, ok, facciamo una grigliata. Il giorno dopo mi ha fatto: abbiamo chiamato le bamboli di Pezza. Ah, ok. E qui diventa una cosa seria, perfetto. E quindi da lì, nel momento in cui mi hanno detto così, ho detto vabbè, a questo punto, visto che comunque dobbiamo tornare a far rumore, cerchiamo di organizzare qualcosa insieme, e insieme a Marisan Nicotina, che sono a Cremona, capostipiti di quello che erano il punk a Cremona, cerchiamo di organizzare qualcosa insieme per poter appunto tornare a suonare e a portare quella che è a Cremona la musica suonata, perché comunque purtroppo una scena c'è, esiste, perché ci sono tantissime realtà incredibili, come My Dinosaur's Life, piuttosto che Night in Paris, piuttosto che i Sanavra, piuttosto che i De Asini, che comunque suoneranno comunque bene o male in tutte queste situazioni, però cominciamo a rifarla questa cosa, e alla fine il 27 si fa. Quindi per il 27 io ho detto, preparerò il disco remixato, rimasterizzato, più un inedito che ho trovato dentro questo hard disk, Morfina. a casaccio, esatto. Era un po' tutto. Sai, sembra un po' tipo quando si allineano tutti i pianeti, no? Tutti gli astri, che dici è una cosa veramente impossibile solo quando e se ma, e quei e se ma è capitato 10, 15 anni dopo, 20, quello che possa essere dopo effettivamente il tuo rilascio da parte con i Blue Nitro, quindi questo sorta di scioglimento, perché effettivamente poi dopo, come dicevi tu, da 2013 è stato questo cambio. Però, come ti ripeto, a me fa veramente un sacco piacere. Detto questo, se vuoi aggiungere qualcosa prima di ascoltarci effettivamente Morfina, vai pure, che così. Sì, Morfina è praticamente l'ultimo stadio, l'ultima canzone che noi avevamo composto insieme a Mattia, perché eravamo rimasti da 4 a 3, eravamo power trio in cui suonavo la chitarra, lui era il basso, batteria sempre Nicola Sciacca, e questo, diciamo, inedito è sempre rimasto in questo hard disk, però è un testo molto significativo, perché comunque riassume un po' quello che potrebbe essere stato un periodo vissuto anche da parte mia, e quindi nel momento in cui è successo da parte sua, ma poi successivamente capitato. E quindi ho detto, ho ascoltato bene le parole, ho detto qua c'è da pubblicarlo, perché è esigenza. Quindi siccome per me la musica è sempre stato quello, è stata sempre un'esigenza, quindi non per forza pubblicare qualcosa nel momento in cui non devi dire niente, quando devi dire qualcosa lo dici, e Morfina l'ha fatto in questo momento, quindi perfetto. E rientriamo dopo questo singolone, che ripeto, ovviamente nel podcast sentirete solo la parte dell'intervista, come sempre fatto da diverso tempo a questa parte, e su Spotify il discorso della playlist con tutti i vari brani che andrò a mettere in trasmissione. Brevemente, prima della fine della prima parte di Stormo Rock, dopo andrò a mettere anche un'altra uscita, che tanto due minutini, quella ce la scaviamo, ce la andiamo a ascoltare velocemente come il classico punk rock hardcore melodico a cui siamo abituati ad ascoltare. Quindi prime impressioni a una settimana dal concerto, come sta andando? Prove, ansia, timori, paure, tutto? Allora, dobbiamo dire che siamo stati fortunati, perché a un certo punto, eravamo tipo due mesi e mezzo fa all'incirca, eravamo io e Nico, il batterista, e basta. Quindi cioè, stavamo pensando magari di fare una cosa con l'octaver, col basso, io al basso, lui, io e batteria, cioè una cosa del genere, no? Perché la cosa bella di Nico è che lui è praticamente fisso sulla mia seconda voce, no? Quindi scusami, fisso sulla prima voce, quindi fa le armonizzazioni, quindi io e lui ci compensiamo benissimo, siamo sempre stati molto vicini a questo punto di vista. Però ci mancava chitarrista e basso a tutti gli effetti. E vabbè, vuoi che il bassista Mattia, che è quello che ha scritto Morfina, è andato a vivere a Barcellona, vuoi che gli altri sono impegnati per lavoro e altro, siamo rimasti a Nico. Però vai, gira a Cremona, trovi altri ragazzi che suonano, proponi questa cosa folle, e abbiamo trovato Ludo, top, in tre giorni si è imparato tutti i pezzi, e Andrea, anche lui top, in tre giorni si è imparato tutti i pezzi, quindi usciremo martedì con un video live dove presenteremo anche questa formazione, che sarà una formazione top. Ok, bene, bravissimo. Quindi è a livello invece un po' di ritornare sul palco dopo tanto tempo, un po' quella come la senti? Vedrai sul momento e speriamo vada tutto bene, oppure c'è un attimo? Guarda, da quel punto di vista lì io non ho mai avuto timore, nel senso che comunque mi trovo bene sempre sul palco, poi soprattutto avendo comunque molti amici, come diciamo, vicini, non ci sarà questa problematica. Sicuramente riaffrontare quello che sono le storie passate dentro il suono, fuori dal suono, la tempesta, così è sicuramente una cosa forte dal punto di vista, diciamo, musicale, quindi è un bel tuffo nel passato. Benissimo, benissimo, mi fa un sacco piacere questa aplomb, questa calma interiore magari che in questo momento, esatto. Va bene. Seconda parte di Lestromo Rock, chi si stava seguendo un attimo la diretta, siamo molto dilungati in discorsi super mega e quant'altro. Se qualcuno poi volesse dire la propria, può tranquillamente magari rivedersi il video, se vuole lasciare un qualche commento lo può tranquillamente fare, siamo tutti sicuramente aperti a magari a rispondere a quello che possa essere magari pensieri personali. Ma torniamo effettivamente alla puntata di quello che è questa domenica con Fabio dei Blue Nitro, che ripeto è sempre qui con me in collegato tramite Instagram, ma ci ascoltate sicuramente anche dalla radio, e ripeto 333-180-94-94 per WhatsApp, ho il tablet qui davanti, se qualcuno volesse mandare anche semplicemente un messaggio di saluto lo può tranquillamente fare, a meno che non stiate guidando, mi raccomando, oppure se qualcuno sta seguendo la diretta, come già qualcuno stava facendo, qualche commento lo può tranquillamente fare sulla diretta di Instagram. Una domanda a posteriore di quello che erano i Blue Nitro e piuttosto magari di quello che saranno, che penso che sia stato tipo, la vedo una cosa tipo congelata per degli anni, come un paio, presenti come Mariah Carey, no? Che è pronta a dopo ottobre a spaccare il ghiaccio e sparare con la sua canzone natalizia per tutto il periodo natalizio. Ecco, l'ho visto un po' nel piccolo, adesso spero sia un piccolo complimento, che non la prenda. Assolutamente, cavolo. Quindi no, l'ho visto un attimo come questo, dici ghiacciati per 20 anni, dici ma sai, ci sblocchiamo, quest'anno ci sblocchiamo, poi vediamo. Ma quello che volevo dirti è, me ne hai già parlato, quindi magari se ne vuoi un attimo parlare, non entrando troppo nel dettaglio, perché mi ricordo di quello che mi avevi detto. Testi molto, effettivamente, molto personali, come avevi già un attimo accennato, dici ritornare a cantare canzoni che avevano un peso una volta, sicuramente questo peso si è un attimo alleggerito, ma comunque il pensiero rimane, quindi c'era tanto di te, tanto di voi all'interno dei testi, giusto? Sì. Alla fine, allora, diciamo che noi, avendo iniziato come Domo Punk, ci siamo affacciati alla musica proprio in inglese, NoFX come riferimento, Leg Wagon come riferimento, quindi vabbè, alla fine il punk era quello che ci risultava più semplice per poter comunicare. Chiaramente a un certo punto siamo arrivati ad un bivio, a dire ok, noi lo stiamo comunicando in Italia, ma qualcuno ci capisce? La risposta era no. E quindi da lì abbiamo iniziato a scrivere in italiano. Quindi i primi testi, magari anche insieme a amici, come ho scritto nei vari post su Blue Nitro, al campetto piuttosto che al parchetto, primi testi abbozzati su melodie, cose così. E poi a un certo punto, dai 17 anni in poi, perché comunque alla fine quello era il periodo, abbiamo cominciato a vivere la vita, ad avere esperienze, a vivere esperienze, e abbiamo, diciamo, perché comunque scrivevo io al tempo, mentre invece comunque i ragazzi, Lazza, Bado e Nico, tutto sul discorso arrangiamento, eravamo sempre in stanza a condividere questo. Abbiamo messo nero su bianco quello che erano le esperienze, buttandole proprio bam, così, in fronte, no? Quindi senza pensare a cosa sarebbe successo, a cosa avrebbe pensato la gente, a come sarebbe stato la reazione, no? Era proprio un buttare di getto giù tutto. E alla fine, riascoltandole queste cose che a un certo punto, come ti dicevo, erano un po' pesanti, ho detto però alla fine erano veramente la realtà, quindi mi piace l'idea di buttarle fuori nel 2025 con Morfine Inedito. Dai, ottimo, quindi io colgo l'occasione per andarci ad ascoltare effettivamente un brano che magari penso che era quasi fisso nella vostra scaletta, come con il volo, credo, probabilmente quando era, esatto, quando è il primo venuto, che è stato composto. Esattamente, era Here in My Home, il testo originale in inglese, poi è stata cambiata in Il Volo. E rientriamo dopo il brano. Ovviamente ci stiamo dilungando, quindi per fortuna c'ho la base sotto, quindi se parte la base è perché meno male ci siamo un attimo dilungati, come spesso capita, perché no, mi scoccia veramente tanto andare ad interrompere chi ho qui che si sta lo dico esponendo per modo di dire, no, per dire, sta tirando fuori un discorso, è tirato fuori un attimo un argomento, una domanda fatta a 10 secondi dalla fine, che obiettivamente non era stata neanche una cosa furba da parte mia di andare a chiederti un piccolo chiarimento a fine del pezzo. Però tutto questo per dire che era un discorso di rimanere quello che eravate, puri e sinceri. Sì, coerenti con noi stessi. Alla fine non c'era l'intenzione di... cioè, allora, il mondo ci faceva schifo anche noi in quel momento, però forse eravamo più, diciamo, onesti e sinceri a parlare di noi stessi, e molte volte è più difficile parlare di questa cosa, no? In modo, diciamo, diretto, senza filtri, così. E noi, te l'ho detto, il pensiero principale, ma che io ho sempre avuto io, ma come tutti gli altri, è: a me non me ne frega niente di cosa pensa la gente, cioè io voglio scrivere questo, a me è successo questo, se tu vivrai questo, per me sarà una cosa di condivisione. Certo. È chiaro che empatizzo con tutto quello che sta succedendo nel mondo, perché è un disastro quello che sta succedendo tuttora nel mondo, ed è un disastro totale. Allo stesso tempo, cioè, vorrei io scrivere qualcosa, dire qualcosa per fare qualcosa, per far cambiare le cose, ma qua l'unica soluzione è la rivolta popolare, non è scrivere una canzone, purtroppo. Anche se allo stesso tempo i cantanti sì, dovrebbero comunque dare un messaggio e dire: oh, qua cosa cazzo sta succedendo? Però sono altri tempi, insomma, il 2004 non era un periodo così disastroso come questo. Forse adesso sì, c'è da dire qualcosa da questo punto di vista. Quello sicuro. Infatti volevo chiederti, appunto, tirando fuori un attimo questo discorso, mi cade proprio a pennello il discorso di implosione, no? Che era questa... sì. Che non dico che ci siamo tanto lontani adesso, sinceramente, da quello che avevate detto nel 2004-2005, quindi è purtroppo è un pezzo che dici: lo penso sul futuro, la vedo che purtroppo sta andando in quella direzione, e vedi che tristemente ci stiamo veramente andando in quella direzione. Implosione 20.239, per essere preciso. No, implosione 2023, sì. Allora c'era un errore. 2023, allora, no, l'intenzione non era essere in Nostradamus di Cremona, però, purtroppo, per forza di cose, ci siete arrivati. Però alla fine, un paio d'anni dopo il Covid, alla fine sì, no, ci siamo arrivati. Il discorso qual era? Cioè, allora, sicuramente se c'era un brano di dal punto di vista, diciamo, di sociale, insomma, dove si parlava di quello che era al di fuori dalle nostre esperienze, proprio Implosione, e quindi Implosione voleva essere quello che era il rispetto di un mondo che comunque stiamo mandando a rotoli, quindi il discorso ambientale prima di tutto. Quindi io ci tengo molto a questo lato, anche a mio figlio lo spiego tutti i giorni che questa è una delle cose più importanti a cui noi dovevamo tenere e mantenere il nostro mondo. Quindi, però allo stesso tempo anche l'empatia verso le persone, perché possiamo imparare matematica e tutto quello che vuoi e studiare, essere i più laureati del mondo, ma nel momento in cui non sei empatico e non capisci cosa prova l'altro, questo mondo va a rotoli. Quindi sì, purtroppo siamo finiti in un'implosione. Purtroppo, tristemente sì. Ma anche dal punto di vista musicale, sono 20 anni che alla fine purtroppo si sta facendo, 15 anni comunque si sta facendo roba che dici, non so, i ragazzi non hanno una cultura musicale, no? È un circolo, sì. Cioè, non lo so, ma sarà che comunque noi siamo nati in un momento, io sono dell'81, da genitori che erano degli anni 70, e negli anni 70 comunque si ascoltavano Beatles, Queen, piuttosto Queen. Tra l'altro Queen, cioè, roba che alla fine dicevi: fia, qua musicalmente c'è una rivoluzione, no? Invece adesso proprio anche questo discorso delle nuove generazioni, con questi testi tutti incentrati su droga, gangsta, piuttosto che vivere una vita di sfarzo e bella vita, cioè, non lo so, non la capisco. Piuttosto preferirei qualcuno che si guarda dentro e parla di se stesso, hai capito? Po' come sfogo. Quasi gli sgocci della puntata di Nostromo Rock, sempre in collegamento con Fabio De Brunitro per parlare appunto di De Brunitro. Quindi, con questa data one shot, con questo ritorno, con questo album, con questo singolo tirato fuori dall'hard disk e quant'altro, un po' avendomi messo come collaboratore del post di Morfina, ti ringrazio tantissimo, ha fatto veramente piacere. Come ti dicevo nel fuori onda, prima di entrare in diretta, vedo anch'io effettivamente le view, le visualizzazioni e quant'altro. Un sacco di like e un sacco di visualizzazioni, tipo 5.000, cose che non ho mai visto, numeri che non ho mai visto. Quindi, a fronte un po' di questo, che purtroppo tanto funziona tramite i social, ma a livello pratico, cosa ti aspetti da questo? Da questo ritorno. Ok, niente. Ci sta, guarda, cioè, ci sta, dici, guarda, io sono entrato, l'ho fatto per me, No. me l'hanno chiesto, io suono questa domenica, cioè su questo sabato, e ciao belli. Allora, in pratica è questo, cioè, allora per me era una fotografia, era fare una fotografia di quello che siamo stati. Purtroppo noi, vabbè, nel tempo abbiamo fatto tanti dischi e avremmo voluto comunque sempre realizzare dischi di un certo tipo. Si faceva fatica all'epoca sia per le cifre che giravano negli studi, sia per poi una serie di tecnologie che comunque non c'erano. E alla fine Riccardo Frigoni di Glotoneria Studio è riuscito a realizzare quello che volevamo realizzare, avere quei suoni. Io sono andato a prendermi il Cubase 2 dell'epoca, prendere tutte le tracce originali, esportarle tramite un altro mio amico, Filippo. Abbiamo esportato queste tracce e le abbiamo buttate all'interno di questo studio che è Glotoneria e hanno realizzato quello che avremmo sempre voluto avere. Quindi per noi è esclusivamente una fotografia, nient'altro. Benissimo, io praticamente, come ti dicevo, sono effettivamente quasi arrivato agli sgoccioli, ho giusto il tempo di mettere gli ultimi due brani, tra cui ovviamente Voragine del Blue Nitro con la versione di In Morfina. Ma prima di chiudere, c'è la domandica classica, scarica barile, c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti dire? Ma no, allora, io ho sempre la speranza che la musica sia un mezzo di salvezza per i ragazzi, perché per me lo è stato. Quindi in questa società in cui, diciamo, ritorno dopo un paio d'anni, diciamo, dove mi sono fermato con la musica e vedo che c'è molta difficoltà a comunicare, molta difficoltà a essere se stessi, no? Così, io spero che questo sia un mezzo, diciamo, il nostro per far capire che quello che facevamo era una cosa genuina e una cosa che usciva dal cuore. Quindi questo possa essere per i ragazzi anche giovani presupposto per dire prendo in mano uno strumento e inizio a fare qualcosa. Dai, ottimo, speriamo, speriamo. Io, come ti dicevo, sono arrivato alla fine, che così con gli ultimi due vado a chiudere effettivamente la puntata, e ti ringrazio veramente tanto di questa comparsata, di questa, come avevo chiamato, meteora di nostalgia, perché effettivamente, fotografia come l'hai chiamata tu, mi fa veramente un sacco piacere, e ti ringrazio ancora della disponibilità comunque. Io ringrazio te perché ti ho incontrato appunto a quel festival e mi hai detto delle cose molto positive rispetto al disco e quindi hai capito esattamente quello che volevo dire e te l'ho detto anche, quindi nel senso hai capito la sincerità che c'era lì dentro e spero che lo capiscano anche gli altri. Poi per il resto ti ho detto l'importante è sostenere la musica come stai facendo te, quindi io ti ringrazio per la collaborazione e poi per la proposta appunto di venire qua. Quindi in bocca al lupo Danilo per tutto e avanti così. Dai, e si dice viva il lupo adesso. Quindi io non lo so, adesso dicono così, però va bene. E forse Animal Liberation, magari tutto quel discorso di per essere politically correct anche in quel discorso, probabilmente viva il lupo. Però adesso è un altro discorso, okay. Questo dove c'è da parlare tantissimo anche su questo. Quindi io ti saluto e ci vediamo alla prossima, se non è il 27, ci direi che ci vediamo magari in giro da qualche altra parte. E grazie, grazie ancora e buona serata. Grazie mille Lex Talk, More Rockstar, e a prestissimo, grazie mille, un abbraccio. Ciao, ciao. Intanto io vado a chiudere la puntata, ma buon punk rock a tutti.